L'Evangelo per radio, salvati per grazia mediante la fede. Cari ascoltatori, quando l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, affermò «L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia», disse una verità che ancora oggi noi stiamo vivendo. Sì, l'uomo che ascolta l'Evangelo ha tante reazioni. Ma una reazione comune è che l'uomo, quando ascolta ciò che il Signore dice, è sì disposto ad accettare le verità di Dio, però pone sempre delle condizioni, e questo è l'ostacolo di fondo. Non è facile per l'uomo naturale, cioè l'uomo che non è stato rigenerato per lo Spirito Santo, penetrare il significato della via cristiana, anche quando esso gli viene spiegato in modo semplice. Vedete, tutte le religioni parlano, trattano il problema del peccato, però lasciano da parte l'intervento di Dio e giungono perciò a una conclusione che possiamo chiamare a buon mercato. In esse viene risparmiata all'uomo l'umiliazione finale di sapere che il mediatore deve portare il peso della punizione in sua vece, così che l'uomo non ha bisogno di sottomettersi a questo giogo e non è spogliato fino alla nudità. Ma secondo l'insegnamento di Cristo, l'uomo è spogliato fino alla nudità. Alla luce della croce diventa evidente che il contributo dell'uomo alla sua salvezza è proprio nulla. O lo salva Cristo o non è salvato affatto. A nessuno piace pensare che la propria salvezza dipenda solo dalla misericordia di Dio. Tutti preferiamo pensare di essercela guadagnata per mezzo di una conquista personale. L'uomo naturale lotta disperatamente per evitare la conclusione che la sua salvezza dipenda interamente dalla grazia di Dio. E questo vale sia per chi si professa religioso o irreligioso, sia per chi si considera cristiano, umanitario, agnostico o ateo. Di chiunque si tratta, ognuno farà di tutto per non sottomettersi all'umiliazione finale, di vedere cioè che tutte le speranze di questo mondo e di quello futuro dipendono dalla grazia di Dio. Giustamente qualcuno disse che il peccato assume svariate forme, ma fondamentalmente consiste nel rifiuto di sottomettersi alla legge di Dio e quindi nello scegliere deliberatamente la via dell'uomo piuttosto che la via di Dio. E tale scelta l'uomo non può farla diversamente dal porre la propria fiducia in se stesso, invece che in Dio. Quante persone oggi leggono o ascoltano ciò che è letto nella Bibbia, ma purtroppo, inevitabilmente, cercano di far sì che ciò che dice il Signore vada d'accordo con quanto esse pensano. Vedete, cari ascoltatori, l'uomo non è libero di imporre i suoi schemi, non può elaborare le sue proprie idee, portandole ad una superficiale armonia con la Bibbia e dopo etichettare il risultato con il termine cristianesimo. No, non si può adattare la Bibbia ai propri pensieri, poiché la Scrittura dice che i pensieri dell'uomo sono vanità, e quindi cercare di far andare d'accordo ciò che dice la Bibbia con quanto pensa l'uomo vuol dire abbassare il livello della santità di Dio al livello dell'uomo. I nostri sforzi, tipicamente pii, per riconciliare Dio con noi, devono essere veramente un'abominazione ai suoi occhi. Sì, ciò che noi a volte riteniamo saggezza, per Dio deve essere veramente spregevole. Non vo' è nulla di più grave per Dio, quindi, che lo stabilire una propria norma di vita e rifiutare di sottomettersi alla rivelazione che Dio ha fatta in Cristo. Ecco perché la Bibbia ci dice che l'uomo è giustificato, salvato per la sola fede, perché la fede non è una virtù più elevata, non è un merito più elevato, ma piuttosto una completa rinuncia alle virtù o al merito umano. È l'atteggiamento dell'abbandono completo a Dio, ed è questo che Dio vuole. Dio vuole che ti abbandoni a Lui, senza riserve, senza condizioni. Chissà quante volte hai ascoltato le parole di Dio? Forse tu segui fedelmente questi programmi senza, tuttavia, aver mai ascoltato o considerato attentamente che è un grave peccato quello di cercare di armonizzare i tuoi piani, la tua volontà, con quella di Dio. Il Signore vuole che tu accetti la Sua volontà, e la Sua volontà è questa: che ti affidi totalmente a Lui, perché tu non hai alcun merito per andare in cielo. Non puoi con le tue capacità fare una sola cosa che possa essere gradita. Quando avrai capito questo, quando avrai creduto in questo, Quando avrai accettato questa verità, solo allora vedrai in un modo nuovo l'opera di Cristo e capirai che ciò che Egli ha fatto è sufficiente per darti l'accesso al cielo. Cristo è sufficiente per renderti giusto una volta per sempre. Confessa quindi a Dio la tua incapacità di poterti salvare da solo, di poter piacere a Lui, e accetta per fede, una volta per sempre, il dono della salvezza che Dio, nella sua grazia, ti vuol fare.